chiedevi se vi erano stati. Siamo, saremmo su queste seconde, eh? Già è una coda, perché eri assente. Grazie. Molto rapidamente, se vi erano stati delle analisi sui problemi internazionalistici, no? Della nostra giuspubblicistica. In verità qualcosa avevo dedicato anch'io a questi temi, sulle riflessioni internazionalistiche dei vari Romano, Orlando, ma anche poi degli internazionalisti di Tucur, cioè Donato Donati, Dioniso Anzillotti e così via, quell'intervento nel volume Socialista dello Stato Liberale, la crisi dello Stato Liberale, edito da Mazzacane, e poi in un altro lavoro mio sui giuristi e il mondo accademico italiano dinanzi alla guerra di Libia. La riflessione, devo dire che mi sembra che vi sia, sia assai elaborata, approfondita, si parte spesso da un fatto storico, l'analisi dello scontro che vi fu tra esecutivo e Parlamento, fra Cristo e Parlamento, sulla pretesa crispina di fare a meno dell'approvazione del Parlamento per la ratifica del Trattato di Uccialli. È quello un punto di partenza ed un luogo dove, rispetto a quale sempre si ritorna. E poi un altro momento indubbiamente da non trascurare sulla riflessione di questi personaggi sull'internazionalistica è tutta l'opera di Romano, la pluralità degli ordinamenti giuridici, tutta la sua riflessione parte dai due luoghi, dai due punti di riferimento, Chiesa, e dall'altra parte ordinamento internazionalistico, ordinamento internazionale, che arriva ad una organizzazione, ad una istituzionalizzazione, ad essere esso stesso comunità internazionale ordinata, organata, organizzazione, istituzione, e quindi in cui l'uso dell'autodifesa, che rimane nei rapporti internazionali quell'obiezione di inevitabilità, almeno non si vuole ricorrere al fuga del poliziotto a cui stamani Pombeni faceva riferimento, può essere però ordinata giuridicamente dall'essere anche la comunità internazionale istituzione, organizzazione, ordinamento, e quindi presupponente una giuridicizzazione dei rapporti internazionali. Schulz, non mi sembra che vi sia una contraddizione tra un'aspirazione al far sorgere un nuovo diritto pubblico che sia separato, scisso e che prenda il posto del diritto civile, un diritto speciale pubblico, un diritto amministrativo, che lo sostituisca. E quando sostiene Ranelletti, Romano, i nostri giuspubblicisti italiani, proprio anche prendendo rifacendosi a questi insegnamenti tedeschi, si vuol superare il modello del diritto civile, che era il diritto che regolava i rapporti tra cittadino e Stato, quando lo Stato era il fisco, il modello più vecchio. Si supera il dualismo persona giuridica pubblica, persona privata, la duplicità delle persone, duplice persona dello Stato. Si supera addirittura la distinzione tra atti di imperio e atti di gestione, privati gli uni e pubblici gli altri. Si unifica tutto questo, questo sì, indubbiamente, ma si fa poi questo, ecco quello che sostengo io, si fa poi questo con il ricorso a categorie concettuali, civilistiche, che a mio parere non sono affatto una nominalistica, una formalistica trasposizione, ma contraddicendo a quanto sostiene questo indirizzo che ormai ha trovato nel marco del testo in questo lavoro sulle concessioni amministrative, questa forte affermazione, ma vi è una determinazione dei contenuti proprio, e qui naturalmente si tratta di verifiche analitiche da fare, di andare a toccare in mano e vedere, e poi di verificare sul campo. Quanto poi alla definizione se questo Stato è veramente liberale, io sto in parte a questo punto rispondendo all'intervento di Fioravanti, ma non direttamente perché non ero presente, quindi attraverso il riassunto in tedesco, non so cosa, ma indubbiamente questa libertà, ecco, per questa libertà dei privati, per questo privatismo, che è una libertà più vasta e va al di là, dico, del privatismo anche economico, il ruolo dello statalismo e del super soggetto stato è, svolge un ruolo fondamentale, interno, intrinseco. Rapidamente poi super soggetto stato, concentrazione di autorità, certo, ma poi dico qui la mano invisibile è stata sostituita da qualcosa di visibilissimo in questo fine 800, dallo Stato. Del resto in questo stare insieme in maniera politica, il momento dell'autorità, il momento se ne può fare a meno. Il problema è che viene costruito questo momento, sia lo Stato sia l'amministrazione, ripeto, con quali categorie? Con quali categorie concettuali, con quale modello? E i risultati sono garantistici o meno, sono certo ambivalenti, ma a mio parere anche di grande e straordinaria effetto garantistico. Quanto poi a Pombelli sul fatto che diceva che Orlando vi è un riferimento soltanto alla Costituzione formale, alle norme, eccetera, vi è tutta un'elaborazione, volevo dirti, che fa estrema attenzione a Orlando, ma eccetera, in cui la Costituzione non è mai norme, è soltanto le norme, le consuetudini, le prassi, vi è un'assoluta attenzione, un continuo richiamo in tutti. E poi per Meriggi una cosa molto rapida, io vorrei invitarlo ai principi di diritto costituzionale, sempre dei nostri giuspubblicisti, per quanto riguarda il diritto di associazione, e qui però a conferma assoluta di quanto lui diceva, c'è un'esposizione chiarissima, lineare, sempre dell'associazione, che può, purché ne parli academicamente, in maniera neutrale, intorno a un tavolo, come stiamo facendo noi, senza passare all'azione, parlare anche delle pieghe, proposte di eversione statale, perché si rimane da là quando si passa all'azione, però finché si rimane lì, il diritto individuale, privata, libertà, intangibile. Ci sono, e credo che sia opportuno stare, quando si parla di giuspubblicistica, a vedere queste cose, questi grandi manuali, che arrivano a 17, 20, 30 edizioni, che forse hanno un'assai più forte incisione nella formazione della nostra pratica rispetto alle voci di un Brugnanti o a qualche altra voce che insomma forse avevano una minore incidenza. Molte grazie. Adesso dunque era iscritto a parlare a Rückert, bitte. Ich möchte drei kurze Bemerkungen zu dem Vortrag von Herrn Dilcher machen. Die eine Bemerkung bezieht sich auf den allgemeineren Hintergrund, den Beseler 1843 mit Volksrecht und Juristenrecht vermutlich hat. Dieser Terminus Genossenschaft kommt, glaube ich, etwas unvermutet aus hegelianischem Hintergrund bei Beseler. Denn Hegel hat das sowohl in der Rechtsphilosophie als auch in seinen Verfassungsschriften über die württembergischen Landstände drin als Konzept. Und da kommt erstmals dieser Gedanke, dass in einer Dialektik von Genossenschaft und Herrschaft gewissermaßen Freiheit und Bindung zugleich vorkämen und irgendwie als Kategorien für die politische Geschichte wichtig seien. Das scheint mir der Hintergrund und der eine Satz, den Sie zitiert haben, mit Vorsehung, Weltgeschichte, Germanen und dann noch Genossenschaft, ist ja sehr leicht zu transponieren in Hegel, von dort her zu holen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, was ich auch noch unterstreichen möchte, dass die Terminologie bei Gierke, Herrschaft, Genossenschaft, in der Tat eine dialektische ist, wenn man so will. Man darf es nicht so streng nehmen im Sinne der hegelischen Dialektik, aber es sind komplementäre Begriffe und er spricht ja von diesem ewigen Kampf der Prinzipien in der Weltgeschichte. Und ich würde es versuchen, moderner, nüchterner zu nennen, eine offene Teleologie. Und das scheint mir deswegen sehr wichtig, diese Offenheit der Teleologie zu betonen, weil damit erst die politische Einordnung der Gierkeschen Auffassungen etwas greifbarer wird. Er ist nämlich weder eindeutig auf Herrschaft festzulegen, noch eindeutig auf Genossenschaft, bezieht wie Freiheit oder Ordnung, sondern es changiert immer ein wenig und die Mühe, die Spindler und Janssen damit haben, hängt eben in der Tat damit zusammen, dass sie versuchen, ihn festzulegen. Er lässt sich allenfalls an konkreten historischen Punkten mit konkreten Stellungnahmen festlegen, ist aber da sehr vorsichtig. Also 1868 Arbeiter-Produktivgenossenschaften, dann 1919 sehr stark für den Heeres-Volksgeist, also offensichtlich das Element der Ordnung etwas mehr. Das scheint mir tatsächlich sehr wichtig und gerade für diesen übergreifenden Zusammenhang der politischen Bedeutung ganz außerordentlich zentral. Und ein dritter Punkt, rechtsdogmatische Bedeutung von Genossenschaft bei Gierke. Da möchte ich sagen, das habe ich eigentlich nie verstanden bei Gierke. Ich habe das Gefühl, dass rechtsdogmatisch der Begriff vollkommen unergiebig ist, dass er in Wahrheit nicht versucht, Rechtsfolgen auf Begriffe zu bringen, wie das ein Jurist tun würde oder versuchen würde, sondern dass er nur eine neue Legitimationsstruktur abbildet für etwas, was die Romanisten eben mit Fiktion erklären. Also während die Fiktion legitimiert, dass die juristische Persönlichkeit in das Recht hineinkommt, bei Savigny oder anderen, legitimiert Gierke es vom Leben her und sagt, das ist eben da, Genossenschaft. Das hat aber keine Rechtsfolgen. Denn beide gehen natürlich mit diesem Gemeinschaftsbegriff relativ unkompliziert um. Ich habe versucht, Rechtsfolgen zu finden in diesem Buch, habe aber eigentlich keine gefunden. Es sind nur Umdeutungen vorkommender juristischer Detailprobleme. Das waren die drei Punkte. Vielen Dank. Grazie. Herr Rückert ha entrato naturalmente su Dilcher. Io purtroppo però non ho più appunti e quindi adesso mi trovo un po' in difficoltà, ma certamente, dunque, tanto per cominciare dall'ultimo, sulla dogmatica, insomma, legata, sulla dogmatica giuridica legata al concetto di Genossenschaft, lui, Rückert è dell'opinione che in Gierke non sia così sviluppata, ecco, questa dogmatica, che ci siano in realtà delle continue, insomma, elaborazioni senza però approfondimenti decisivi. Per quel che riguarda invece l'aspetto che era l'ultimo punto trattato da Dilcher, e cioè della dimensione del rapporto, insomma, diritto, scienza giuridica, politica, mi pare che Rückert abbia sottolineato che anche qui della coppia eterna, no? Signoria, cioè potere, consociazione, insomma, in realtà, diciamo così, intorno a questa coppia l'atteggiamento di Gierke è abbastanza ambiguo, cioè non è uniforme, e nel corso della sua produzione gli ondeggia un po', accentuando in certi momenti più il dato Genossenschaft, in altri momenti il dato Herrschaft, quindi mi pare di capire che sia giusto intendere la coppia proprio come una vera e propria coppia dialettica, che poi mi pare che fosse anche quello che aveva sottolineato lo stesso Dilcher. Ecco, adesso darei la parola a Ilaria Porciani. Sì, Merici citava Bruni Alti e ha ragione per l'ovvio interesse che ha una voce sul concetto di associazione in uno di questi grandi strumenti di sistemazione del sapere giuridico, ma anche di riflessione molto ampia sulla vicenda storica dell'Italia all'interno dello Stato nazionale, ma forse anche prima, e su questo tipo di repertori, appunto in particolare l'enciclopedia giuridica, possiamo già leggere molte riflessioni generali sul libro che è appena uscito e che esce proprio dai lavori di questo nostro gruppo. Ma il nome di Bruni Alti è opportuno anche per un altro motivo. Prima di tutto perché Bruni Alti ben conosceva, leggeva e citava e divulgava in Italia buona parte della letteratura ricordata da Dilcher sulle associazioni, la letteratura tedesca. Non solo, ma è opportuno appunto ricordare il suo nome anche per un altro motivo, e qui il ricorso alla biografia di Bruni Alti stesso è abbastanza rilevante, perché Bruni Alti, oltre ad essere uno studioso e un divulgatore, è un deputato molto attento alla teoria ma anche alla pratica delle elezioni, al radicarsi delle clientele, ed è uno dei fautori, è uno che entra direttamente in una serie di associazioni di vecchio stampo della sua Vicenza, ma anche in associazioni di tipo nuovo, per l'appunto è un personaggio centrale del Touring Club, del Club Alpino e così via. Conosce bene associazioni appunto di tipo nuovo che già possono essere definite di massa, dove manca il filtro della presentazione personale, dove c'è l'adesione a un programma e c'è appunto l'ingresso più o meno ampio delle masse. Ora però vorrei fare un'altra riflessione su queste associazioni ampie, così diverse da quelle della prima metà del secolo. Le associazioni di questo secondo tipo a cui Merigi alludeva hanno anche una seconda caratteristica di diversità che le differenzia da quelle della prima metà del secolo. Cioè se si differenziano da quelle della prima metà del secolo non soltanto per questi filtri e per questi criteri di accesso, ma anche per un altro elemento. Esse occupano spazi sostanzialmente diversi. Le associazioni della prima metà del secolo occupano sostanzialmente uno spazio ancora privato, è lo spazio del salotto, della conversazione, dell'accademia ristretta, dentro un luogo sì certo pubblico, ma anche assai privato, un luogo chiuso, stanno dentro le mura. Nella seconda metà del secolo, dopo l'unità e soprattutto a partire dagli anni 70-80 in grandissima parte, dall'interno della casa, del salotto, dalla conversazione filtrata dalle amicizie familiari, si passa all'esterno, alla visibilità dello spazio pubblico. Anche io qui dichiaro il mio personale percorso e vorrei palesare la prospettiva dalla quale guardo a queste associazioni, ho guardato a queste associazioni. Nel corso di uno studio sulle feste nazionali e patriottiche dell'Italia Unita, come un momento di integrazione delle masse dentro lo Stato, dalla festa dello Statuto alla festa del 20 settembre, ecco, io ho visto queste associazioni nell'iconografia, nelle liste, nei rapporti dei prefetti. Sono numerosissimi gonfaloni, stendardi, insegne, sono associazioni che escono all'esterno, si manifestano all'esterno. Ed esse costituiscono in qualche modo, attorno ai simboli dell'Italia monarchica, laica e poi crispina, appunto un momento di integrazione delle masse, di integrazione della società civile. Forse a questo anche Tommaseo in seguito poteva pensare nei suoi tardi anni, il cattolico Tommaseo. E quindi secondo me bisogna anche un po' porre il problema per queste associazioni di massa della fine del secolo, non entrando nel merito delle varie differenziazioni, perché ovviamente poi si entra in scena le associazioni più democratiche, quelle più legate al nascente socialismo e così via, ma bisogna porsi anche il problema di in quale misura esse consentono in qualche maniera anche l'integrazione delle masse dentro lo Stato nazionale e quindi costituiscono un anello di collegamento nuovo. Ecco questo. Grazie. Cambria. Dunque mi riallaccio alla relazione di Merigi che mi trova totalmente consenziente, quindi posso solo limitarmi a cogliere alcuni spunti che meritano poi uno sviluppo ulteriore, ma sono d'accordo nelle suggestioni che lui propone. Beh, intanto sulla ripartizione, sulla distinzione che lui fa fra un campo positivo, fra i valori positivi annessi all'associazione in una certa epoca storica e il successivo cambiamento di segno, di valore che vi si connette. Direi che si può forse esemplificare ancora meglio, cioè vedendo nella prima metà stessa dell'Ottocento, prima che l'ingresso poi delle associazioni di massa, le associazioni di mutuo soccorso prima e poi di resistenza dopo, cioè cambino, cioè i termini effettivi del dibattito, e quali sono i riferimenti principali appunto relativi all'esperienza internazionale. È vero che spesso la terminologia dà una visione forse ancora più edulcorata di quanto la lotta stessa politica poi non abbia comportato, in quanto fra le associazioni viste in termini positivi sono ancora probabilmente quelli inglesi della prima metà dell'Ottocento, cioè l'Associazione per la Riforma Elettorale o l'Associazione contro il Dazio sul Grano, che hanno accompagnato una lotta politica vivace. A questo punto poi poteva intervenire anche l'apprezzamento della repressione dei moti di piazza, comunque il concorso di una pubblica opinione anche attiva in termini molto dinamici è considerata con un valore positivo. Il termine negativo subito nella tradizione liberale italiana direi è il club giacobino. La setta nasce come sinonimo del club, è il club giacobino che crea un potere extralegale contrapposto all'assemblea legittimamente eletta con un valore appunto che non è più solo propositivo, che non è più solo dinamico, che non è più solo dialettico, ma è antagonistico, è antistato, è sovversivo di per ciò stesso. E questo appunto è una costante, secondo me, che riallaccia per un periodo abbastanza lungo della storia politica, parlamentare e giuridica italiana i dibattiti sulle nuove istituzioni postunitarie con la fase della riflessione sulla grande rivoluzione, cioè l'altro grande riferimento, oltre a quello della cultura giuridica tedesca, è quello dei dibattiti parlamentari della Francia e della Restaurazione prima e della Monarchia di Luglio poi, e dei contemporanei dibattiti della Camera inglese. Per il periodo appunto successivo, quando sempre più intorno al termine associazione, appunto come fatto già sovversivo di per sé, senza che questo necessariamente comporti l'esplicarsi di azioni materiali, appunto le cautele, poi i limiti, poi la teorizzazione di repressioni sempre più stringenti, appunto si accumula fino a rendere praticamente inesistente nella dottrina dei giuristi, ma anche nella giurisprudenza parlamentare, la possibilità di una teorizzazione favorevole alle associazioni, se non da parte dell'estrema sinistra naturalmente, come esplicazione dei diritti individuali, come prosecuzione di quelle libertà individuali che invece si pensava di poter ancora tutelare, che invece idealizzavano come completamente tutelabili nello Stato liberale. Ecco, però forse qui, non so se ho capito bene, forse ho un punto di dissenso da segnalare rispetto a Merigi, questo riguarda semmai il rapporto con la dottrina dei giuristi tedeschi. In fondo anche nel contesto più liberale delle discussioni di fine Ottocento, nei momenti in cui, cioè, la possibilità di una legislazione totalmente illiberale sembra realizzabile, il modello non è mai quello della dottrina dei giuristi tedeschi, cioè non si pensa mai a una codificazione nell'ambito per esempio del diritto amministrativo, e questa mancata codificazione, anche se le teorizzazioni dei giuristi restano valide nel prosieguo dei decenni, rimane un ambito di libertà effettiva, di libertà costituzionale mai formalizzata ma accettata, cioè Orlando l'accetta con scarsa convinzione, però rimane questa mancata codificazione nel campo del diritto pubblico uno dei tratti costitutivi dello Stato liberale rispetto ad altre forme di Stato costituzionale contemporaneo. Appunto, contemporaneamente, semmai appunto queste considerazioni si possono riallacciare. Parallela, ma non certo politicamente differente o lontana, della mancata codificazione di alcuni ambiti associativi attraverso una nuova elaborazione del campo del diritto civilistico privato, cioè la mancata codificazione non si ha né nel campo del diritto pubblico amministrativo né nel campo del diritto privato. E questo, a mio avviso, al di là degli aspetti formali che per certi lunghi periodi, cioè, incidono relativamente nella storia politica italiana, cioè i giuristi scrivono non esiste una libertà d'associazione, ma c'è di fatto, cioè è ammessa, è consentita da una prassi politica. Questo però ha un suo esito, a mio avviso, importante poi per cogliere alcuni aspetti, secondo me, centrali della crisi dello Stato liberale nel primo dopoguerra. È questa mancata legittimazione delle forme associative dei lavoratori, delle camere del lavoro, delle leghe di resistenza, che alla fine, a mio avviso, è uno dei dati centrali sia della fattuale, sia della mentalità nel costume, che aiuta senz'altro a capire il rapidissimo sormontare del fascismo, che su questo terreno trova una legittimazione che per altre vie, con altri mezzi o con altre attività, probabilmente non avrebbe trovato. Grazie, lasciamo a Merigi poi di fare eventualmente le sintesi tedesche, perché io sono troppo, comincio a essere un po' stanco. Sofia. Dunque, io volevo unicamente fare brevissime riflessioni sul tema del diritto di associazione, così come è stato sviluppato da Marco, ricollegandolo al problema dello Stato di diritto che è stato dibattuto questa mattina. E in particolare, appunto, a me sembra che così come si è risolto il problema dell'associazione nel nostro diritto pubblico, sia uno di quei segnali di quell'eccedenza di cui parlava anche Allegretti stamattina rispetto allo Stato di diritto. Infatti, insomma, riprendendo il discorso che aveva fatto Marco, mi sembra che almeno fino agli anni Ottanta, dove nasce veramente una riflessione sullo Stato di diritto, da noi l'associazione si è invece regolata, diciamo, sulla base non di un diritto amministrativo, ma di un diritto politico, lo chiamava per esempio Aranjo Ruiz, vale a dire un diritto di imperium che spetta al governo, no? E che è qualcosa quindi che eccede diciamo, il diritto amministrativo, che non entra nei poteri amministrativi. È un potere di imperium che si, in un certo senso, riprendendo un vecchio discorso probabilmente attinto all'esperienza anglosassone, si contrappone alla jurisdictio, un gubernaculum che si contrappone alla jurisdictio, ma che non c'entra affatto con un diritto amministrativo come diritto, come appunto diritto interno, no? E all'interno della comunità. Questo diciamo, è il problema dell'associazionismo fino all'anno 80. Ora, diciamo, rispetto a questa visione, diciamo, uno spaventa nel discorso famosissimo di Bergamo nella giustizia e amministrazione, descrivendo proprio questa situazione, questo scioglimento continuo arbitrario del governo, che diciamo, è responsabile solamente nei confronti della maggioranza e non diciamo, assume l'associazione all'interno dell'ordinamento regolandolo con una legge, chiamava la teorica italiana del diritto pubblico, in cui appunto non esistono garanzie formali interne. Il problema è allora, e in un certo senso, in questo senso, diciamo, finora esiste quindi un diritto del governo che eccede lo Stato di diritto, no? Un ambito, le associazioni, no? proprio in quanto sono in un certo senso il punto di raccordo tra Stato e società, non è diritto. Che cosa succede dopo l'anno 80? Dopo gli anni 80 esiste un associazionismo di fatto, ma non esiste ancora un diritto sulle associazioni. Le associazioni rientrano nel diritto amministrativo, ma rientrano per fattispecie, potremmo dire per discipline di serie, no? Vediamo nascere attraverso alcuni fenomeni associativi, penso per esempio alle società zoofile, penso alle associazioni per il controllo della combustione, quelle che poi saranno gli enti pubblici. E allora mi sembra che anche in questa seconda fase il problema delle associazioni è un problema che non entra nel problema dello Stato di diritto, proprio perché diciamo, questi nuovi enti pubblici non soddisfano quelle qualità diciamo, di legalità formale, no? Che sono implicite nel concetto di Stato di diritto. Ecco, e proprio questo discorso sulle associazioni mi è sembrato il modo migliore anche per ricordare che in fondo della nostra storia amministrativa lo Stato di diritto non è tutto. Grazie. Grazie a lei, Frau Sofia hat eine Beziehung zwischen der Frage der Assoziation und dem Problem des Staatsrechts gestellt. Und das ist sehr interessant. Nach ihrer Meinung ist die Assoziation niemals innerhalb des italienischen Rechtsstaats eingetreten. So, weder vor noch nach den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und das hat aber große, schöne Implikationen und so weiter. Herr Dambit. Ja, ich melde mich auch zu dem Referat von Marco Merigi, was ich auch in seiner rhetorischen Eleganz mehr bewundert habe, als dass ich es im Einzelnen genau verstanden habe. Aber es geht mir um die zentrale These und den möglichen Vergleich mit Deutschland, an dem uns ja hier liegt. Und wir sind seit langem im Hinblick auf das Assoziationswesen ja in einer Kommunikation. Zunächst die konkrete Frage, die ich möglicherweise jetzt auch nicht verstanden habe. Marco, wie erklärst du diese zweite Phase des Denkens über das Assoziationswesen, wo ja offensichtlich eine öffentliche Gefahr hier signalisiert wird? Ich habe ja heute Morgen auf das Revolutionserlebnis hingewiesen. Ist das eine mögliche Erklärung, dass man dieses Assoziationsprinzip immer noch mit dem revolutionären Prinzip irgendwie in Verbindung bringt und auf der anderen Seite die liberale Gesellschaft Italiens auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts noch nicht die Sicherheit in der Assoziierung hat, sodass sie sich dem gegenüber dem möglichen revolutionären Prinzip, was hier wieder reinkommen kann, sicher fühlt. Der Vergleich mit Deutschland fällt hier sehr schwer, denn Deutschland entwickelt sich offensichtlich anders, jedenfalls sind die Phasen dort anders. Ich würde sagen, drei Phasen wären zu unterscheiden. Zunächst im 18. Jahrhundert bis zur Französischen Revolution, das, was auch der ersten Phase, die du geschildert hast, entspricht, im Grunde genommen eben die Assoziierung der Honoratioren, die auch obrigkeitlich im Grunde genommen gedeckt wird. In den Freimaurerlogen sind die Herrschaftshäuser mit drin. Also es geht sogar bis in die geheime Organisierung ja hinein, die im Grunde genommen mehr oder weniger legalisiert ist. Dann kommt der Einbruch mit der Französischen Revolution und ihrem Clubwesen, was nun wirklich als Gefahr verstanden wird und wo auch die bürgerliche Gesellschaft dann vorübergehend unsicher wird in Deutschland, zumal ja nun auch das ganze politische System jedenfalls von seinen Grenzziehungen her in Frage steht. Das setzt sich fort über 1815 hinaus im Deutschen Bund in der ständigen Befürchtung der Regierungen gegenüber dem Assoziationswesen. Das Bürgertum auf der anderen Seite macht aber seit den 20er, 30er Jahren dann zunehmend positive Erfahrungen mit dem Assoziationsprinzip und man kann es fast auf ein Jahr datieren, nämlich der heute Morgen von Herrn Luig schon erwähnte Verein zum Wohl der arbeitenden Klasse. Das ist im Grunde genommen das Datum, wo dann in Deutschland sowohl von oben her wie auch eben von der bürgerlichen Gesellschaft her das Assoziationsprinzip eigentlich legalisiert wird. Denn dieser Verein wird vom König, vom preußischen König angeregt. Vorher schon, zwei Jahre vorher, hat er die Turngesellschaften wieder zugelassen. Und nun, dann beginnt eben dieser große Siegeszug der Massenorganisierung in Deutschland, der dann auch in den 50er Jahren nicht mehr gestoppt werden kann. Und diese Organisierung, dieses Assoziationsprinzip ist so stark, dass es auch dann, eben wie wir ja gehört haben von Dierke oder Lorenz Stein, dann eigentlich nur noch systematisiert werden kann, aber eigentlich nicht mehr in Frage gestellt wird. Grazie, puoi rispondere, no? Amato, chiederei un po' di brevità perché stiamo andando, abbiamo ancora due relazioni, quindi figurate. Dai il microfono, bitte sehr. La ricostruzione che il professor Girke ha fatto del concetto di Genossenschaft, soprattutto sul versante, diciamo, della tradizione germanistica, no? Citava Besseler e Girke, che naturalmente rivendicava un significato, un segno di valore fondamentalmente positivo al concetto di Genossenschaft, associato per esempio al contenuto di solidarietà. Molto giustamente Gilker sottolineava che si tratta più probabilmente di un concetto forse pregiudizio che ha basi di tipo sociologico o di diritto naturale, e sottolineava che comunque questo concetto di Genossenschaft si applicava a questo asse, direi, neo-aristotelico, famiglia, Gemeinde, Staat, no? Rivalutato appunto in senso positivo. Una delle suggestioni che mi veniva da questo intervento era, anche in relazione al problema che è stato posto di un significato poi negativo che viene ad assumere a un certo punto il concetto di associazione, se noi andiamo a vedere invece quell'altro versante, e cioè quei giuristi e quei pensatori politici che non condividono un'impostazione, diciamo, ingenuamente organicistica, non si rifanno al tradizionale organicismo Standish, ma sottolineano la divaricazione tra Stato e società civile, richiamandosi chiaramente alla coppia romanistica diritto privato, diritto pubblico. Penso per esempio a Robert von Moll, il quale nella sua Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften del 1855 usa appunto, forse uno dei primi usi del termine Genossenschaft, in senso invece fortemente negativo. Perché? Perché Genossenschaft non è più riferito a questo ambito solidaristico che culmina nello Stato, ma è invece riferito a questa, lui lo chiama una Lebenskreisen, dei Lebenskreisen intermedi tra l'individuo e lo Stato, sono queste Lebenskreisen che costituiscono la Bürgerliche Gesellschaft e che sono appunto quelle che lui chiama Interessengemeinschaften o Interessengenossenschaften, che sono o di tipo religioso, connotate negativamente, oppure di tipo economico, connesse con il lavoro e la proprietà. Sono per esempio le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dei capitalisti, della grande proprietà fondiaria. Ecco, queste Interessengemeinschaften, queste Genossenschaften costituiscono, cito, un elemento in massima parte funesto, un selig, nella vita pubblica, e devono essere tenute ben distinte dalle istituzioni dello Stato. Tant'è vero che appunto sono cose note, lui distingueva la necessità di una fondazione, di una scienza della società distinta da quello dello Stato, anche se poi andava tutto ricondotto all'interno di una scienza complessiva dello Stato. È noto, è stato sottolineato anche da Pombeni, per esempio, che Moll appunto sottolineava la necessità di un carattere fortemente statuale degli stessi partiti politici, mentre i partiti in quanto espressione della società avrebbero dovuto essere espunti, diciamo, dal gioco politico, proprio perché minacciavano di introdurre degli elementi di conflittualità e degli elementi impuri, diciamo, nella vita politica statale. E quest'uso, questa connotazione fortemente negativa del termine Genossenschaft è alla base, a mio avviso, del suo rifiuto drastico anche del suffragio universale, quando nel 1867, come è noto, viene introdotto da Bismarck nella Confederazione tedesca settentrionale. Il motivo non è solo quello sottolineato per esempio da Pombeni di un rimpianto per una ristretta opinione pubblica liberale che verrebbe sconvolta da questa irruzione di masse rozze egemonizzate o da un partito cattolico o appunto dai democratici rozzi, cioè masse privi degli strumenti del ragionamento politico, ma anche proprio perché alla base ci sono queste associazioni di interessi viste come un elemento appunto fortemente caratterizzato, fortemente in senso negativo. Negative Meinung von Moll der Genossenschaft. Cardini. Molto brevemente, a me interessava sottolineare un aspetto che ho trovato assai importante della relazione di Meriggi, e così mi piaceva rimarcarlo un momentino, e cioè questa salto brusco nella crescita numerica dei partecipanti alle associazioni degli anni Ottanta. Mi interessa molto, ecco, sottolineare sia questo fatto, il passaggio dalle associazioni di elite alle associazioni così un po' più vaste, perché, ecco, vorrei dire, era una cosa che non è stata molto finora mai notata, sottolineata e così bene articolata come ha fatto stasera Meriggi. E in secondo luogo la data, cioè questi anni Ottanta. Questi anni Ottanta, pure anni Ottanta e poi anni 90 in sostanza, ma a partire dagli anni Ottanta anche la data io la trovo significativa, è un elemento su cui riflettere e che va, a mio parere, anche collegata a quanto abbiamo detto fino ad adesso sulla formalizzazione giuridica dello Stato e della Costituzione. È proprio in questo periodo, infatti, che si collega così quello che ci dice Meriggi con quello che abbiamo detto anche stamattina, che c'è questa formalizzazione della giuspubblicistica, cioè una sistemazione da un lato dello Stato, dall'altro una sua propria organizzazione e sviluppo della società di massa, a partire dagli anni 80 e dell'Ottocento, un momento in cui evidentemente c'è una crescita, una fase di modernizzazione del nostro paese. Grazie. Adipa Vita. Allerletzte. Ich will es ganz kurz machen. Ich habe wirklich nur eine Frage, will kein Chorreferat halten. Ich verstehe etwas vom Vereinsrecht, von dem Vereinswesen, wenig von der Vereinsgeschichte, gar nichts von der Dogmatik und deswegen gerade meine Frage, die sich insbesondere natürlich an Herrn Dilcher richtet. Warum hat man das Assoziationsrecht im 19. Jahrhundert, vielleicht ist die Frage ganz falsch, dann können Sie gleich sagen, das hat keinen Sinn. Warum hat man das Assoziationsrecht so kompliziert begründet? Warum hat man 10.000 Seiten geschrieben, um zu beweisen, dass es korrekt ist, sich versammeln zu dürfen, einen Verein gründen zu dürfen, dass dieser Verein Vermögen erwerben darf? Warum konnte man nicht, oder ist es nur sozusagen spezifisch die Eigenart von Gierke? Aber ich habe den Eindruck, dass er ja aufgrund seiner Resonanz nun durchaus eben eine erhebliche Minderheitenmeinung hier zutage gefördert hat. Warum konnte man nicht einfach zurückgreifen auf, sagen wir, und das ist keine erschöpfende Aufzählung, Grundrechtskataloge westeuropäischer Herkunft, da steht es doch drin. Warum haben die das nicht gemacht? Warum haben die das nicht naturrechtlich begründet, was ja ganz einfach geht? Ich weiß natürlich, das Naturrecht war nicht sehr en vogue im 19. Jahrhundert, allenfalls als Rechtsphilosophie, aber es hat ja nun zumindest im 18. Jahrhundert Versuche gegeben, schon das Vereinswesen rein naturrechtlich zu begründen. Und warum ist das nicht sozusagen noch einmal aufgedeckt worden? Eine Kontrollfrage sozusagen, eine Art von Assoziation hat es ja immer gegeben. Vielleicht ist sie nicht als Assoziation begriffen worden. Warum hat man sich nicht einfach Kirchengemeinden als Vorbild genommen? Die Kirchengemeinde muss ja irgend so etwas gewesen sein. Im 18. Jahrhundert hat das Naturrecht Kirchengemeinden als Vereine definiert, jedenfalls ein Teil des Naturrechts. Und da hätte man etwas gehabt, was perfekt dem entspricht, was man im 19. Jahrhundert mit unglaublicher Mühe wiederentdeckt und entwickelt hat, unter Rückgriff auf die alten Germanen. Perché tante complicazioni nell'Ottocento sul diritto di associazione? Prego. Io credo che si potrebbe brevemente, però, davvero molto brevemente, dare la possibilità ai... Io non ho solo, forse Ciafferotti ne ha certamente approfittato prima per rispondere, l'unico che non ha risposto è stato lui, che non ha più ripreso la risposta. Ja, ich bedanke mich für die Anregungen. Das, was Herr Rückert gesagt hat, nehme ich gerne als Bereicherung auf. Vor allen Dingen die Verbindung zu Hegel war mir nicht bekannt, von Beseler. Das passt sehr gut auch zu der Weiterführung bei Gierke in Bezug auf die Beachtung der dialektischen Gegensätze, die gegenüber Hegel sicher vereinfacht sind, sind wir uns einig und auch, dass da die Fehlinterpretationen wohl ansetzen. Ja, also vielen Dank. Ja, der C, die rechtsdogmatische Bedeutung. Ja, ich habe das eigentlich auch nie ganz verstanden und man kann es vielleicht mit der Beantwortung der Frage von Herrn Dipper verbinden. Da geht es noch eine Stufe tiefer. Für Ihren Beitrag bedanke ich mich ebenso. Ich habe jetzt keinen Punkt, wo ich direkt darauf antworten könnte. Die deutlichste Frage ist die von Herrn Dipper und auch da möchte ich Sie als Frage eigentlich nachdrücklich in den Raum stellen. Das ist in der Tat eine sehr nachdenkenswerte Eigenart des deutschen 19. Jahrhunderts. Warum musste alles so auf ideologische Grundprinzipien, historische ideologische Grundprinzipien zurückgeführt werden? Die andere Frage ist, warum wurde es dann nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern europäisch so weit rezipiert, das, was uns als eine skurrile Überbau über ganz realen und viel einfacher und pragmatischer zu diskutierenden Verhältnissen erschien. Ein deutlicher Unterschied zu dem angelsächsischen Pragmatismus vor allen Dingen. Ich meine, es hängt damit zusammen, dass die deutschen Verhältnisse so schwierig waren und man vieles aus der politischen Situation, aber vielleicht auch aus der universitätspolitischen Situation nicht direkt und pragmatisch diskutieren konnte, weil man dann gleich einem Lager zugeordnet wurde und das wollte man nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass Gierke sich eigentlich nie realpolitisch festlegen wollte. Und dass etwa ja, jemand wie Gierke eben Dinge verknüpfen wollte, die in der Realpolitik nicht verknüpft waren, zum Beispiel Fragen der Kirchengemeinde. Gierke hat ja durchaus die Reformation als ein Sieg des genossenschaftlich germanischen Prinzips gegen das römisch-lateinische der Einheit angesehen und die Wiederbelebung des gemeindlichen Aspekts im Kirchenleben im 19. Jahrhundert ebenfalls in diese Sache eingeräumt. Aber dass er zum Beispiel das mit Fragen des normalen Vereinswesens, der Gründung der freien Gründung von Aktiengesellschaften verbinden wollte mit Zulassung von Gewerkschaften, ist, glaube ich, verständlich davon, dass er zu einem Bürgertum sprach, das nicht ansprechbar war auf die einfachen liberalen Grundsätze des 18. Jahrhunderts. Französische Revolution und all das war ja mit negativen Vorzeichen besehen. Was germanisch war, war mit positiven Vorzeichen versehen. Und ich glaube, er wollte der deutschen Gesellschaft vorhalten, ihr müsst konsistent bleiben. Ihr dürft nicht in einer Frage so und in der anderen so entscheiden, sondern es handelt sich um eine Frage der Gesellschaftsgestaltung insgesamt. Und weil man da nicht so umfassend politisch, nämlich naturrechtlich argumentieren konnte, weil man damit sofort in ein Kästchen reinkam und von vielen Seiten mit negativen Vorzeichen versehen wurde, griff er auf einen solchen weiten historischen Hintergrund zurück, wobei ich meine, dass eben damit auch Erkenntnisquellen für die Verwertung von Geschichte zwar überstrapaziert, aber doch benutzt worden sind, die Geschichte unter stärker für die Gegenwart unter prinzipiellen Aspekten verfügbar machte, als das mit anderen Ansätzen geschah. Also ich meine, da ist auch ein Gegengewicht zu einer totalen Historisierung, wie sie sonst haben, also Abwehr von Geschichte dadurch, dass man sie nur als positivistisches Faktensammelsurium ansieht. Das ist aber, wie ich zugeben muss, nur eine vorläufige Antwort, aber es zeigt, dass die Frage so berechtigt ist. assolutamente telegrafico. Ringrazio tutti per i suggerimenti che sono emersi, che mi sembrano in gran parte delle integrazioni ed anche delle prese di posizione su ambiti cronologici che non ho toccato, di cui sono lieto. Cioè, ovviamente mi fa piacere che poi gli sviluppi della discussione, non so, pensavo appunto a quello che Rita Cambria da un lato, Francesca Sofia dall'altro, hanno osservato relativamente ad epoche successive. Mi pare proprio un arricchimento della, di ipotesi, di conoscenze che accetto molto volentieri. In particolare su singoli punti, ecco, una battuta ulteriore su quello che ha osservato Ilaria Porciani, cioè il passaggio dalla spazio chiuso allo spazio aperto. Sì, è vero, c'è un'osservazione perfettamente pertinente, tanto più che il nascere del problema associazione, come reprimerla, deriva da questo, cioè finché ovviamente sta all'interno di uno spazio chiuso rimane un fatto privato, invece tendendo a poter diventare una manifestazione di massa, è la ragione per la quale evidentemente c'è un qualcosa di qualitativamente distante da questo punto di vista. Per quanto riguarda le questioni che mi ha posto Otto D'Anno, la prima era relativa a perché si ha in qualche modo una percezione negativa dell'associazione a partire da una certa epoca nell'Italia liberale. Ecco, è da sottolineare il fatto che ogni qualvolta giuristi o politici parlano di questo argomento, lo fanno commentando un qualche avvenimento di tipo criminoso che è appena avvenuto. Cioè, quando si dice dobbiamo cercare di frenare le associazioni, imbavagliarle, porre dei limiti, ci troviamo sempre davanti a situazioni in cui, non lo so, per esempio, è stato appena fatto un attentato al re. Essendo l'attentato fallito, è stata però gettata con successo una bomba sulla folla in una città che stava festeggiando il mancato attentato al re. Cioè, il tipo di intergrund che c'è dietro alle discussioni sulla queste associazioni che mutano in quest'epoca è sempre quello comunque del confine con i fatti criminosi. Il problema è che i fatti criminosi sono il modo naturale di esprimersi di gran parte delle forze che sono escluse dalla legittimazione politica in un paese che ha comunque dei criteri di identificazione di gruppo dirigente estremamente selettivi, insomma. Quindi è come in sostanza impedire alle forze che non hanno voce, che non hanno espressione pubblica, di acquisirne attraverso la pratica associativa. E per quanto riguarda la periodizzazione, il confronto con la Germania, il discorso ovviamente ci porterebbe lontano. Io osserverei, potremmo parlarne forse anche perché poi magari non so se è di interesse generale per tutti, privatamente, ma unicamente in prima battuta, mi pare che l'Italia sia una storia un po' diversa, nel senso che il periodo prima della Rivoluzione francese in Italia è ancora sicuramente un periodo in cui il modulo associativo dominante è la vecchia accademia, che è un fenomeno tipicamente italiano, insomma, che ha molto a che fare con l'enorme ricchezza di centri urbani che l'Italia ha anche come caratteristica particolare. Quasi silenzioso il fenomeno associativo rimane durante l'età napoleonica, in cui in Italia si assiste a una forte protagonismo da parte delle strutture di Stato, l'amministrazione, ma viceversa a un quasi tacitamento di quella che è la società civile. E la prima epoca di fioritura, quella che si può paragonare un po' all'epoca della seconda metà del XVIII secolo per la Germania, delle associazioni in Italia è l'età della Restaurazione, cioè malgrado le leggi di polizia su un terreno informale ne nascono molte che non hanno obiettivi politici, che sono però criptopolitiche, insomma, no? Quindi i moduli liberali cominciano a costruirsi, non hanno una ragione sociale esplicitamente indirizzata a interagire dal punto di vista politico con le strutture sociali, ma comunque il fenomeno è lì. Questa fase ascendente culmina con il raggiungimento dell'unità d'Italia, quindi siamo 1859. Questa direi che è il momento terminale della spirito di associazione come parola chiave del vocabolario politico liberale in Italia. Dopodiché, nel momento in cui a dotarsi di strutture associative diventano per l'appunto gruppi sociali diversi da quelli dirigenti, inizia la fase di grande crescita quantitativa del fenomeno, però anche di mutamento dell'intestatario sociale del fenomeno stesso, cioè del soggetto sociale che lo esprime, insomma. Grosso modo è così, ma poi potremo parlarne meglio. Nient'altro da dire. Grazie, 5 minuti.